Hola. Pattuglia chiama Corvo. Cosa è, dai? Capo pattuglia chiama Corvo. Ciccicciu. Settore 10, c'è qualcuno? E allora, com'è? Attento, pipistrello. Oh, qua. Chi è che sta mettendo musica a 14? Antonello dovrebbe essere, a fondo scala qua. Ma ci ha lasciato la porta attaccata. Oh, lei sta mettendo musica, io sto così. Infatti ho detto, segnale è Claudio, ma non penso che sia Claudio, si monga pure in musica. Perché mi stava svaltellando, lo sentivo su altri canali, ho detto, ma cos'è questo rumore di fondo? Invece poi mi sono svoltato e c'era questo segnale. Ha sclerato del tutto. Ah, sta parlando da solo. Ciao a tutti. Sì, anch'io stavo seguendo la musica, peraltro roba della mia gioventù, ormai. Ah? Ciao Robè, riprendi. Infatti ho detto, guarda, uno ha toccato il coso, magari c'è qualche bambino in casa. Ma ha detto, Claudio, bambini non è, non può essere. Ha detto, chi può segnare così forte? Ho detto, Claudio o Antonello, uno dei due. Allora che qualcuno non si metta sotto casa. No, io sono qua, tra l'altro ho il telefono poi. Capito? Sono qua, sono 10, non io voglio musica. C'è una musica, io. Via. Mi sta parlando sul 14, anche a me mi sta spartelando. Ehi, un attimo che l'ho chiamato. Lo chiami, ma se ne stai in chi, cosa chiami? Allora gli dico di non venire, aspetta. Ma con chi sta parlando? Ma la connessione è fatta, te l'hai, o te l'avevo fare? Scusate, l'ho chiamato, l'ho salutato che sto per mangiare. Ciao a tutti, ciao. Ciao Marco. Ciao Marco, ciao. E io sono 7:20, come scopo col cane. Gran bella giornata oggi. Sì, la giovedì fa una bellissima giornata, proprio il giorno più caldo. Poi sabato pioggia. Si abbiglia il dolce, vabbè, è cosa avete di qua. Tempo suo, sono queste belle giornate così a dicembre, ben vengano, però è chiaro che il tempo è quello. Perché già adesso siamo d'inverno, diciamo, tra poco qualche giorno inizia l'inverno, è tempo suo, però cacchio, mi rompo le scatole, mi aspetti il fine settimana per fare qualcosa e poi più vica. E cosa fai? Ma poi il camper l'avevi finito, il Ducato? No, allora è finito, diciamo, il lavoro grosso, tutta la parte del bagno, doccia, è tutto a pozzo. E l'impianto elettrico adesso bisogna fare tutti gli interruttori, sono tutti già usciti, fili, già tutto da collegare agli interruttori, ai deviatori, eccetera. E più devo fare le pareti del coso, della parete, i pannelli della parete dove ci va il letto e sotto gli armadi, dai, i pensi, chiamiamoli pensi. Ah, ho capito. Vabbè, l'importante è che sei già a buon punto, dai, non c'è problema. Gappa, il Marco sta mangiando, Antonello sul 14 che sta provando la radio con la musica, Antonello! Uno che prova con la musica, lo sta facendo scaldare i finali. Non lo so, io ho sentito musica. Gappa. Stavo dicendo, le connessioni fatte te le hai al bacio? No, ne ho portato stasera, poi lo ritiro domani, no, tanto fretta non ce n'è. Ehi, ne ho portato poco fa, quando mi hai visto tu, che mi ha telefonato, sono andato a portarglielo, adesso mi sono rientrato a casa, poi domani me lo ritiro, quando vado a ritirare mia figlia dal lavoro, passo e me lo ritiro. Ehi, no, è bello, mi piace. Poi, i base, a me piacciono le base, trovate i baracchini, rarissimi proprio i baracchini che posso dire è bello, mi piacciono solo i cose, state nei base. No, io già ne ho belli, sto iniziando a vedere qualcosa, dai, bello quello che mi hai dato tu, quell'altro, quel Lafayette, questo che sto modulando, l'Inoit, quell'Intec, lo Standard, il DAC, dai, già ne ho. Ma mi sto appassionando a modulare con questi, mi piacciono. E adesso quando c'ho tempo anche io lo faccio andare al patch. Il Royce forse un paio di volte l'ha andato, però c'ho il microfono suo originale del Royce, il palmare, non l'ho fatto l'adattatore per farlo funzionare con uno, come si chiama, microfono da tavolo, non so neanche come esca da tavolo. Mentre il patch già usciva bene, anche se ultimamente quando l'ho fatto provare stava un po' gracchiando, sicuramente il Mickey Game bisogna provare a sfruttargli qualcosa dentro dove c'è il potenziometro del Mickey Game. Il poli non lo voglio toccare, non lo voglio toccare perché volevo togliere quel connettore lì, quello della radio, metterlo a 4, in modo che con fare le stesse connessioni di questo, perché io ho un microfono per ogni radio, però le connessioni sono quasi tutte uguali, tranne il DAC è al contrario, io ho l'adattatore, capito? Perché così puoi invertire i microfoni, puoi usarli tutti, questo è un attacco di merda, è l'unico microfono che va bene è questo delle Gain, che c'è l'attacco suo, che funziona bene, però non spinge come deve spingere, se invece le metti un bel timer più 3, oppure le metti un MB più 5, spinge di più, capito? Ma non toccarlo, se vuoi un consiglio, lascialo così, perché poi domani, tra 10 anni e 20 anni, chi tu che è, se lo puoi vendere, c'è sempre un apparato originale, quello non è mai stato toccato. Ti fa un adattatore, se proprio vuoi mettere un timer, tanto per provare, te lo fai con le stesse connessioni, per dire, della LAN 48 o di qualunque altro baracchino. Ehi, rispondi al telefono. A te rispondo al telefono. Luca. Luca. Oh, Luca è. Luca. Oh, ci sei qua. Ehi. Mi ha mandato un messaggio a Luca, passare su 10, ho detto siamo qua. Luca. Ma flipper. Ehi. Questo sta andando sempre bene, sì. Cos'è qua? Ho detto se questo sta andando sempre bene. Sì, ma ti è fatto nuovo, lo sai, Clasi, no, non riesco a sentirti chiaro. Aspetta che ho passato la potenza, guarda a vedere adesso, senza attenuazione. Adesso già va meglio. Ho passato la potenza, c'è una potenza maestra. Ah, è troppo forte, da parte mia, aspetta, fa saturare uno di questi giocattolini, è strano. No, perché siamo anche troppo vicini, capito? Così va bene, sì. Sì, così sì. Molto carattere segnale. E vediamo un po' se c'è qualcuno su 10, attenzione al 10, tanto tra pochi minuti devo andare a prendere i panini, mi ha chiamato mia figlia. Ehi, poi io lo stesso non esco un po' col cane, visto che non c'è molto freddo, faccio fare un giretto più largo oggi, dai. Vediamo un po'. Attenzione Luca Flipper, ci sei. Luca? Ma questa cos'è? La Matova 5 o la Matova 1? Ma questa che c'ho io? Questa che stai trasmettendo adesso? Matova 1 questa è, Matova 1, non 5. Ma chi da famosa quella là? No, quella è ancora da sistemare. L'altra, quella che abbiamo fatto noi, quella l'ho messa in campagna, dal mio genere. No, capito. Oh, questa è quella nuova che avevo sempre io, sempre quella. Quest'estate l'ho scesa giù, l'ho cambiata in posizione, ho dato una bella pulita, gli ho messo la spirale nuova perché ce l'avevo nuova, sta bella pulita, sta andata bene. Questa anche l'ho fatta anche con l'amplificatore, sempre 1-1 di stazionario, non si muove. Adesso poi è un bel alta, capito? Prima era 2 metri di palo, cioè adesso c'ha 6 metri di palo, quasi 7. Non so, ma sono, guarda, non saranno belle come antenne esteticamente, perché mi sembra una roba antica, però il rendimento della lampada va una bella antenna. Vabbè, ma soprattutto il rendimento, ma soprattutto la la forza che hanno queste antenne, perché è veramente il vento qua ne tira tantissimo, tantissimo, tantissimo, e ti giuro manco ci muove, manco ci muove, ed è alta, tra il palazzo e adesso come c'è il tubo, vabbè, è un tubo molto molto grosso, molto, però l'antenna è sicura, capito? No, ce l'ho anche io, grazie a Dio, sempre, anche se piazzata regolarata con tutti i tiranti come Dio comanda. Adesso ne voglio scendere quell'altra, mi dà fastidio vederla così tutta canta bigiarda e cosa, perché quella di voler centrata bene, basta appena grazie un po' di più e si sicuri, che la vita quell'altra qua multibanda, la stolgo, la smonto e se c'è qualcuno che le interessa gliela avrei, tanto non me ne posso nulla. Sì, ma te l'ho detto, Roberto, un sabato mattina, capito, io ci mettiamo d'accordo, mi sistemo il carico, l'abbiamo fatto per montarla, alle 9 sono lì, 9 e mezza, capito? Appena chiudi ce ne saliamo su e la smontiamo. Sì, tanto è roba veloce, ci vogliono 2.13 e 2.17, ne la vali subito e buh, e la metto da parte, li metto in lato, la ripiego tutta e poi lo dico a cosa, a Luca, se la vuole qualcuno, ricercatemi qualche radioamatore che ha poco spazio e cose che non vogliono antenne grandi e ingombrati, quella lì li fa 5 bande, anche se non è una grande antenna, ma già si può, tanto per far qualcosina a livello semplice, già va bene. E a fare l'Europa, la faccio col deporo io, figurati. Ce ne sono tantissimi radioamatori che io sento, che conosco, che hanno antenne verticali proprio per questione di spazio. C'è Massimino che parla lì da provincia di Latina, arriva una schioppettata, abita in un condominio dove non può mettere direttive, c'è una multibanda e arriva che è una canonata da tutte le parti. Via. Ok, vediamo se c'è Luca Flippe. Ci sei, Luca? Oh, mi ha mandato un messaggio, passa alle 10. Mi ha mandato, sono già sul 10, però ancora non si intende. Via. Lui, ho visto, sta facendo antenne al nastro, sono contento, dai, almeno si fa il nome, e ho visto sta venendo anche fuori. È interessante la situazione, ho visto che ha fatto un coso in 3D, con una stampante 3D, una specie di piantone. Via. Si chiama Luca Master. L'ho visto. Ha fatto, poi c'ha l'analizzato dell'antenna, mi ha mandato il video di quell'antenna che ha fatto lui, che doveva spedire fuori, è abbastanza larga, come larghezza del banda era anche abbastanza larga, per cui riesce anche, le stazionarie erano abbastanza basse, non erano, riusciva a radiare anche, per la 26 a 28 faceva, o 29, adesso non ricordo quanto riusciva a salire, ed erano buone, molto basse le stazionarie, dai, è una cosa interessante, se qualcuno vuole antenne, ci abbiamo la possibilità di fare, senza bisogno di andare a comprarle al negozio. No, c'ha le mani d'oro, veramente, ho visto, mi manda un sacco di video, un sacco di cose, veramente, ci sa lavorare, sulle antenne, ma anche sulle radio, si appenta bene, a me mi ha cambiato il frontalino, io quando l'ho aperto mi sono spaventato, ho detto no, è cosa per me, no, il frontalino delle qua, dell'Inuit, allora da lui, l'ha fatta completamente tutta a pezzi, ma restituita con il frontalino nuovo, guarda, perfettamente funzionante. Quando c'è la passione a fare cose, vabbè, non venuta la va. E io poi fa quella specie di pellicina, cabotatura, come si chiamava, non me ne ammetto, che ti fa tutti dei rivestimenti per qualunque tipo di materiale, te li metti, qualcuno li ho verniciato io col trasparente opaco, ho fatto anche dei manici di roba, dei fucili, cose del genere, quelli mimetici, belli, bei lavori. Vabbè, ci si appetta, poi c'è un sacco di macchinari, di attrezzatura, capito? Uno è così che ha la voglia di fare queste cose, le fa, ma poi lui le fa molto bene, te lo sto dicendo, io grazie a questi due mi sono spaventato, grazie al frontalino, ancora ce l'ho fatto, e me l'ha restituita la radio e cazzo come sta uscendo dalla vetrina, il frontalino che mi ha regalato Gianni Capri, infatti con Gianni ho un rapporto bellissimo proprio perché ci scambiamo queste cose, anche poco fa mi ero al telefono con lui, adesso dobbiamo vedere alcune cosettine. Vabbè, no, mi ha mandato un messaggio che sta cambiando la lampadina dello Smitter perché era troppo forte, c'era un LED molto alto e le sta mettendo uno un pochino più piccolo, capito? Via, no, vabbè, ok, Ok, dai, facciamo un attimo del bianco, che io tra poco devo andare, vediamo se c'è qualcuno che deve andare a pagare i panini. Ehi, ehi, vabbè, quando devi andare non c'è problema, già sono qua io. No, sono buone, vado giù da cosa, la spiga, ci sono mai andato? No, io c'ho qua sempre Oggiano, vado sempre lì a prendere il pane. No, vabbè, anche io vado, però vado già via Catalogno, già lo conosco, ce lo siamo da bambini con Daniele, siamo una di un pare, si può dire. No, vado alla spiga via Montegrappa d'angolo con via Corso, che fa queste pizze da portare da sporto, a parte sono puliti, ordinati, e devi vedere i panini sono allucinati, con una bontà freschi, poi la carne è buonissima. Oh, ma anche Daniele li fa i panini con le pane pizza, molto molto buoni. Grandissimi, io uno non riesco mai a mangiarlo, mangio sempre la metà, me lo divido con mia moglie, sono molto grandi, la pizza lo stesso la fa buona, ma no, lì non ce l'ho mai andato. No, ma Daniele è figlio di coso, di panettiere, era collega di mio zio, panettiere, lavorava alla De Lugo, hanno lavorato una vita col padre, il signor Antonio, è nato, è una delle prime pizzerie, a parte quella di Focco, via Rosello, è una dal 73 che facevano le pizze giù via Catalocchino, poi Daniele se n'è andato alle Punte e poi adesso si è trasferito qua a Carbonara. Adesso c'è il genero di il cognato di Daniele, dai, il figlio del marito di Loredana, che fanno, ha riportato, continuato l'attività del padre. Signor Antonio, era un panettiere da una vita, ha fatto tutta la vita il panettiere, per quel livello di impatti cioè, sono molto preparato. No, anche cosa, come si chiama? Fernando, sì, mai troverà Fernando, molto bravo. So che c'è appunto il casino, ho capito, quindi io ho a Daniele qua e vado da lui, ma mi manda anche i piatti con burti a volte, capito? Problema. Sì, io già lo so. Oh, adesso ti lascio qua, dai, se no poi ci fa troppo tardi, mandare a prendere questi panini, se no deve stare due ore. Ci sentiamo magari domani, poi se passi già lo sai dove sono io. Ciao ciao, dai, buon proseguo. Sì, ciao Roma, e poi già ci organizziamo per fare quei lavori. Kappa kappa, ciao. Ha detto Flippe. Ebbè. Sì, qua sono. Com'è? Uscendo sta. Alla grande. Ah? Alla grande. Allora. Com'è? Puoi arrangi tu il microfono qua? Hai abbassato di radio? No, era al massimo. Togli i toni però, metti i toni a zero. Mettilo al massimo il microfono. Allora, toni a zero e il microfono al massimo. Già sta uscendo, non è che spinge molto però, mi aspettavo di più. Prova, 1, 2, 3. Ma allora sono i toni che aumentano. Vieni un po'. I toni sono che aumentano, sì. Allora ci vogliono i toni a 2. Ma non c'è la modifica in questo microfono, non gliela avevi fatta. Sì, non puoi modificare vecchio, è Gigi Vulcano quel microfono, c'è la capsula ottima, non sai quanto spinge con questo, perché ce l'avevo attaccato qua io, adesso ho messo quello dell'Elbex, capito? Tanto l'Elbex non lo sto usando, uso solo in base, perché non c'ho alimentazione su questa qua 12 volts. Spinge un bel, solo quella lì non c'è la Mickey Gain, capito? Non c'è Mickey Gain questa. Allora. I toni adesso sono a 3. Ehi, vabbè, poi già me le regolo io, l'importante è che esca. La panina messa di aria. Siamo andati anche la foto. Non è che sia di più grande da voi, mezzo blu. Vabbè, però mi piacerà a te. Oh, cazzo, non mi dire che ti ho dato quella blu, no, cazzo. No, non è blu, è bianca. È bianca, vabbè. Va bene. E in foto pare che fosse un bel illusi, ma se andare al camposanto non c'è più meglio, quando lo vedi da poi mi dico cazzo lui per ragione. E cazzo lui, ma quella volta le toglie gli occhi. Va bene, tutto pronto, tutto ok, KK di Roger. Se domani mattina esco, magari ti faccio uno squillo, ci prendiamo un caffè. Se sono in giro, capito? Se sei reperibile. No, domattina sono a casa perché devo fare appunto delle commissioni a salire di Cacciamurtua, sicché non so che la rientro. Se ho le 6:30, se ti manco un quarto, ma cosa bisogna fare al fine, già lo sai. Così che quando rientro ti faccio lo squillo. sì, ciao, faccia come siamo rimasti d'accordo, intanto io domani sera vado a prendere l'aria alle 6:30, esco prima, ci vediamo direttamente domani sera. D'accordo, va benissimo. Scappa di rosmetro. Lo smetto, non capito perché non sale quando premo la portante, boh. Affanco. Quando parli tu sale a 7, 8. Oh, ehi, la portante ci muovia. Non c'è un problema. Come stavo dicendo, invece on air lampeggia. Sì. Lampeggia, sì. Fissa e poi quando parli lampeggia. Ehi, come questa delle novità più o meno. Magari se ci abbini un Turner, che magari è anche più forte di Nicoso, spinge di più. Vabbè, che non si intendi. Se sento a te che già c'hai la voce bassa, figurati io che ho gli acuti, già andavo a te. Va bene, ok, dai, allora lo stacco. È tutto logico, tutto fatto, tutto a posto. Gamba gamba, ascolto, controlla quanti fatti dà, giusto per bilanciarmi se magari devo attaccarli qualche linearettino o qualcosa. Quanti fatti dà secondo te? 3, 4, 5, 3, 2. Aspetta, attacco, perché ho attaccato l'antenna diretta, aspetta, attacco il Rosmet. Se che non ero io, Rosmet, ho la 27. C'ho solo, mi è rimasto solo quello che vuoi. Aspetta, attacca il Daiwa. E guarda, così mi dice, qua, da 3 watt, da 4 watt. E io so che i watt sono quelli, capito? Via, un attimo il sacco. Eia. Tocca perifella. Quattro watt modulati, tappa. Quanti watt da, no? Modulati, 4. Fischiati 5, 3 e mezzo quasi di portante muta. Va bene, ottimo per la truppa, va bene. Staccatelo. Va bene, ottimo. Sto facendo il video qua, te lo mando. Quindi che connessione è quella lì adesso? Al contrario di questa, di quella che c'era prima? Solo gli altri due fili dove c'era da invertire. Quindi al contrario praticamente di questa, va? Sì, esatto. Quindi alla connessione del DAC. La connessione del DAC, quindi quel microfono posso usare sia con quella che col DAC. Ah, boh. Sì, si è invertito i due di sotto, li hai messi sopra. L'importante te l'ho lasciato, ti ho invertito l'altro di due, ricezione e radio. Esatto, sì, come il DAC. Che vega, dai? Ehi, adesso è bene, dai. Microfono, un po' più del microfono normale sta andando, dai. Ma poi già, con la mia voce già spinge un po' di più. Sì, comunque, l'alternata non ce n'è, devi tenere il taschino in disco e poi il resto. Alternata non se ne sente, perché c'è la ricezione, non si sente. Vabbè, aspetta, guardo il video. Andavè, alla grande. Ci puoi mettere un linearetto anche? Sì, la metto, magari quando l'uso la metto quel 747 che c'ho, te lo metto dietro, non si vede neanche, culino. Ma non mi interessa, giusto per averli, ripeto, devono essere tutti funzionanti. Poi chi esce più basso, chi esce più alto, eccetera, però devono essere funzionanti, perché se lo voglio accendere anche a tenerlo in ricezione deve essere funzionante, capito? Perché sono tutti funzionanti. E poi c'è una bella ricezione anche, un bel suono la colonnina. Allora, ma già l'ho sentito quando mi hai fatto ascoltare la mia voce, già va bene. Gaffa, d'accordo, vai che lo stacco. Ok, tutto a posto, tutto a roggero. Va bene, dai, poi ci aggiorniamo domani, Lu, ok? Adesso mi preparo, vado a portare il cane. A dopo se coincide, ciao. A dopo, ciao. il canale 10? Attenzione 10, c'è qualcuno?